Boys Club. Mi tirano, ma già sai cosa mirano. Vuoi entrare nel privé con me? Mi dici sì, oh baby. Le sgrille sanno che non ho un coupé, ma gira lo stesso, por la noce con me. Vieni qui, vieni qui, chica, adesso muoviti. Lo sai quanto mi piaci quando provochi. Sento che ansi, mi senta anche i tuoi fremiti. E quando senti la mia gang fare bang, tu bagnati, poi spogliati. Sì, vai così, all'imbarazzo della scelta con la porno, boy. E se entriamo nella scena sono cazzi tuoi. Sì, sono cazzi tuoi. Altri due Cuba nel club. Dimmi che cazzo vuoi. La tipa in order si va. Dimmi che cazzo vuoi. Me l'hai distrutta con noi. Dimmi che cazzo vuoi. Con gli apri te con la boy. Dimmi che cazzo vuoi. Tu vai fuori, tu vai fuori. Te lo club in te. Tu vai fuori, tu vai fuori. Te lo club in te. Tu vai fuori, tu vai fuori. Te lo club in te. Nel club niente di simile, sei così escluso che mi servono te. Se prendo un invisibile non sto nella Long Island, no. Niente sex on the beach, un'altra serata calda, per me sex with my beach. Sfigati nel club, seghe mentali costanti. Io nel privé che mi faccio le fighe più grandi. E mi stupisco del come tu fai tanto il pappone. Poi le miss per te sono in via d'estinzione. Di averle conquistate col tuo fascino, che poi le hai fatte godere in ogni attimo. Tu con le tipe come me, ma quando sei collassato sul divanetto e stavi solo sognando. E se continua così serata bomba, tu sei talmente morto di figa che tuo cazzo avrà la tomba. Classe 91, sono queste tipe mica come voi che andate avanti a smanettarvi con Playboy. Altri due Cuba nel club. Dimmi che cazzo vuoi. La tipa è nuda e si va. Dimmi che cazzo vuoi. Me l'hai distrutta con noi. Dimmi che cazzo vuoi. Con gli apri te con la boy. Dimmi che cazzo vuoi. Tu vai fuori, tu vai fuori. Te lo club in te. Tu vai fuori, tu vai fuori. Te lo club in te. Tu vai fuori, tu vai fuori. Te lo club in te. Che fai, che fai, che fai, che cazzo ci fai dentro? Cosa cazzo ci fai dentro? Capisce, tu rappi, canti o ti fai le strisce. Ho scopato per sbaglio la tua Punani. Indovina chi ha vinto contro i tre nani. Voi in tre siete alti quanto me. Parapavia di stato nella PlayStation 3. Non parlate di rap, fine, damn. Mi sento quasi Britney. Ho fatto the game. M.I. Flow Voice, un uragano che ti aspetta. Quando passa un voice tieni la tua donna già ben stretta. E tu dispetta i 10 anni di gavetta. Legato alla cultura della tussicomanetta. Fai lo scemo, buon confronto, sai che non è bello. Io per stare pari a te scendo di un livello. Mister Pischello, figato come i Backstreet Boys. Dopo sto brano ti suona come in Wild Noise. Altri due Cuba nel club. Dimmi che cazzo vuoi. La tipa è nuda e si va. Dimmi che cazzo vuoi. Me l'hai distrutta con noi. Dimmi che cazzo vuoi. Con gli apri te con la boy. Dimmi che cazzo vuoi. Tu vai fuori, tu vai fuori. Te lo club in te. Tu vai fuori, tu vai fuori. Te lo club in te. Tu vai fuori, tu vai fuori. Te lo club in te. Che fai, che fai, che cazzo ci fai dentro? Altri due Cuba nel club. La tipa è nuda e si va. Dimmi che cazzo vuoi. Me l'hai distrutta con noi. Dimmi che cazzo vuoi. Con gli apri te con la boy. Dimmi che cazzo vuoi. Tu vai fuori, tu vai fuori. Te lo club in te. Tu vai fuori, tu vai fuori. Te lo club in te. Tu vai fuori, tu vai fuori. Te lo club in te. E che fai, che fai, che cazzo ci fai dentro? 209 Fottari Production. È il Kangri Snacko. Lil Doki K.O. M.A. MC Ivano Steno Sir Plio. Tu vai fuori, tu vai fuori, tu vai fuori. Boys Club Click. Viva la brugna e chi la pastrugna. Viva la vagia e chi la massaggia.